24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Torna d'attualità oggi la Libia, che a un mese dall'inizio dei raid NATO minaccia diversi paesi europei, tra cui l'Italia. Vi racconteremo oggi anche chi era il fotoreporter britannico ucciso mercoledì a Misurata, vi aggiorneremo sui negoziati per il piano di salvataggio del Portogallo e anticiperemo i piani per la beatificazione del Papa polacco Wojtyla. Per chiudere lo sport con i riflettori sulle due squadre del momento, entrambe sono spagnole, Barcellona e Real Madrid. In primo piano, come dicevamo, la Libia con le minacce di Tripoli a tre paesi europei, tra cui l'Italia. La TV di Stato libica ha messo in guardia Italia, Gran Bretagna e Francia e gli altri stati neocrociati per aver inviato addestratori e consiglieri militari in Libia. Questi paesi devono stare attenti alle conseguenze di una simile decisione, afferma una nota del Ministero degli Esteri di Tripoli, letta alla TV Al Jamaria. Poco dopo l'annuncio, uno sheikh religioso musulmano ha definito stati neocrociati l'Italia e gli altri paesi coinvolti nella guerra in Libia. E ora l'uccisione a Misurata di due fotoreporter. Uno di loro era di nazionalità britannica. Tim Etherington era molto conosciuto nell'ambiente del reportage fotogiornalistico. Sentiamo un suo profilo. I'm Tim Etherington. We co-produced, co-directed and filmed our movie called Restrepo that's playing in the US documentary competition. Così il fotoreporter inglese Tim Etherington presentava Restrepo, documentario sulla guerra in Afghanistan realizzato insieme al giornalista Sebastian Younger. We're not ready for this. Get the fuck over here! Il film, che racconta un anno di vita di un plotone dell'esercito americano in terra afghana, ha vinto il gran premio della giuria al Sundance Festival e ricevuto una nomination all'Oscar nella categoria per il miglior documentario. Tim Etherington aveva 41 anni e viveva a New York. Nato a Liverpool, a Oxford aveva studiato letteratura prima di scoprire la sua passione e metterla a frutto nei luoghi di guerra del mondo. Documentando rivolte e guerriglie in paesi come Liberia, Sierra Leone e Nigeria, era diventato un fotogiornalista noto e apprezzato. L'Afghanistan, oltre al riconoscimento per Restrepo, gli è valso un altro premio, il World Press Photo Award, vinto nel 2007 con l'immagine di un soldato americano che si copre il volto dopo una giornata trascorsa in prima linea. L'ultimo fatale fronte di guerra di Tim Etherington è stato la Libia. Quasi profetico il suo ultimo messaggio su Twitter: sono nella città sediata di Misurata, bombardamento indiscriminato da parte delle forze di Gheddafi, nessun segno della NATO. Roberta Pellegatta, Radio 24 e Sole 24 Ore. L'altro giornalista britannico, Guy Martin, freelance per l'agenzia Panos, non è invece in pericolo di vita. Nell'agguato sono stati colpiti anche due fotogiornalisti americani. Chris Ondros, 41 anni, vincitore nel 2006 della Rupert Kappa Gold Medal, ha perso la vita. Non è invece grave l'altro statunitense, Michael Brown. Immigrazione. Non ci sono stati sbarchi ieri, anche a causa delle pessime condizioni meteorologiche. Iniziati intanto i primi respingimenti dalla Francia di nordafricani muniti di permesso di soggiorno temporaneo e titolo di viaggio, ma sprovvisti dei requisiti economici minimi previsti a garanzia di un sostentamento decoroso. Il Portogallo è ancora convinto che l'approvazione del piano di aiuti internazionali avverrà il 16 maggio con l'adesione di tutti i partner europei. Lo ha affermato il portavoce dell'esecutivo di Lisbona, Pedro Silva Pereira, in una conferenza stampa, facendo riferimento alla Finlandia e alla posizione contraria dell'estrema destra finlandese. Il vento della crisi fa crescere gli egoismi nazionali, l'Europa oggi è davanti a un vero rischio di disintegrazione, è il grido d'allarme lanciato dal grande saggio della politica portoghese, ex capo del governo e due volte presidente della Repubblica, Mário Soares, l'uomo che dopo la caduta della dittatura ha traghettato nel 1986 il paese verso l'allora Comunità Europea. E il ministro delle finanze portoghese Fernando Teixeira dos Santos, l'uomo che ha gestito finora la crisi finanziaria del paese e che sta negoziando con Europa e Fondo Monetario Internazionale un piano di salvataggio da oltre 70 miliardi, non sarà ricandidato dal Partito Socialista del premier dimissionario José Sócrates alle elezioni politiche anticipate di giugno. Al via i riti della Settimana Santa in Vaticano. Ieri mattina Papa Ratzinger, celebrando la messa crismale in San Pietro, è tornato a fare ammenda per le vicende di pedofilia, soprattutto in Irlanda, e ha evocato il nome del suo predecessore, mentre Roma si prepara alla beatificazione il 1 maggio di Papa Giovanni Paolo II. Carlo Wojtyla è stato un esempio luminoso di fede, una di quelle persone che danno speranza al mondo. Lo ha detto oggi il Papa, a meno di due settimane dalla cerimonia di beatificazione di Giovanni Paolo II, nell'omelia della messa del Crisma celebrata in San Pietro. Quando il prossimo 1 maggio verrà beatificato Papa Giovanni Paolo II, ha aggiunto, penseremo pieni di gratitudine a lui, quale grande testimone di Dio e di Gesù, Cristo nel nostro tempo, quale uomo colmato di Spirito Santo. Intanto, ieri pomeriggio, si è tenuta in prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, che ha affrontato, tra gli altri, il tema dei servizi di vigilanza e delle misure di sicurezza in occasione della cerimonia di beatificazione. Si prevede che vi parteciperanno 2 milioni di persone e sono attesi almeno 51 capi di Stato. L'area del Vaticano sarà chiusa al traffico fin dalla sera precedente con poste di blocco ed elicotteri dotati di telecamere a infrarossi. E Roma sarà in stato di massima allerta per una decina di giorni, in realtà, per una serie di manifestazioni che partono già domani sera con la Via Crucis del Venerdì Santo, poi la messa di Pasqua, le iniziative per il 25 aprile, martedì la visita del presidente francese Sarkozy, per arrivare alla data del 1° maggio, quando nello stesso giorno della beatificazione di Giovanni Paolo II ci sarà alla sera il concerto in piazza San Giovanni. Alessandra Scaglioni, Radio 24, Sole 24 Ore. Apriamo ora la pagina economica. L'Italia sta uscendo dalla recessione lentamente, lo afferma il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi nel discorso tenuto al convegno Europa 2020, quali riforme strutturali per l'Italia. Draghi ha citato i dati del documento economico e finanziario del governo, secondo il quale solo nel 2014 il PIL tornerà sul livello del 2007, mentre per il prodotto pro capite il recupero sarà ancora più lento. E ora la borsa, chiusura positiva per Milano. Milano ha archiviato con un rialzo dell'1,4% l'ultima seduta della settimana prima delle festività pasquali, recuperando le perdite di lunedì grazie a 3 giorni consecutivi di guadagni. I 2 titoli di casa Agnelli, Fiat e Fiat Industrial, hanno segnato rispettivamente la migliore e la peggiore performance sul paniere principale. La prima è balzata del 4,5% all'indomani dei conti e nel giorno della notizia relativa all'incremento al 46% della quota in Chrysler entro giugno. A mercati chiusi Fitch ha annunciato di aver messo sotto esame per un possibile abbassamento il rating del lingotto. Fiat Industrial, meno 3,5%, ha invece risentito della pubblicazione della trimestrale in miglioramento ma sotto le attese. In calo Telecom, meno 0,9%, penalizzata dall'allarme utili dell'olandese KPN, meno 8,4% ad Amsterdam, e dei timori su un andamento del business mobile peggiore del previsto nel primo trimestre. Tra titoli minori è da segnalare Fulsix, che dalla chiusura dell'11 aprile ha guadagnato il 134% circa. Il mercato scommette sull'arrivo di un maxi risarcimento da VPP nella causa per condotte anticoncorrenziali. Livia Zancanera da Radio Corp, Radio 24, il Sole 24 Ore. La catastrofe giapponese pesa sul piano energetico europeo. L'Austria è il paese al mondo con la maggiore avversione al nucleare, ben il 90% di contrari, seguita dalla Grecia, 89%. In Germania i contrari sono passati dal 64% all'attuale 72%. In Italia il 75% della popolazione è contrario al nucleare. La Francia resta la più favorevole, con i contrari che comunque sono aumentati dal 33% al 41%. Carlo Mann è ingegnere presso l'Enea e si occupa proprio di energia. Occorre puntare, dice, su un progetto energetico europeo e non su progetti nazionali. Sentiamo. Io credo bisogna ragionare in termini perlomeno di Europa. Parlare di autonomia per l'Italia è un discorso che credo non regga molto. Diciamo che sicuramente basterebbe fa riferimento al piano nazionale sulle fonti rinnovabili che è stato presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Già questo vedeva un aumento significativo al 2020 dell'energia da fonti rinnovabili. Adesso poi c'è in discussione una bozza che riguarda lo sviluppo del fotovoltaico, che parla addirittura di arrivare a produrre circa 23.000 megawatt, cioè di installare complessivamente una potenza di 23.000 megawatt al 2016, quindi con una prospettiva di aumento piuttosto significativo. In chiusura lo sport, con il calcio europeo che guarda alla Spagna. Il Real Madrid di José Mourinho ha vinto la Coppa del Re, ma le merengue se la sono goduta poco. Sergio Ramos, nel corso dei festeggiamenti tra le vie della capitale spagnola, si è fatto infatti scivolare dalle mani la coppa. Caduta per terra, è stata schiacciata dalla ruota del pullman delle merengue, che non ha fatto in tempo a fermarsi, ed è così finita in frantumi. Ma tutto il calcio europeo guarda ora a Real Madrid e Barcellona, favorite in Champions League. Carlo Genta.